Divino Doc, tutte altre produzioni di fichi, olivi, olio, eccetera. Quindi è la parte, diciamo, più importante di Cosenza dal punto di vista agroalimentare. Ok, allora io direi di ascoltare il finale di questa bellissima canzone degli Alfa Blondi e nel frattempo rimanete all'ascolto di Fuori Onda Radio per la prima puntata della terza stagione di Indie Radio, il programma di informazione indipendente. Quindi a fra poco con Indie Radio. Ed eccoci qua, finalmente siamo nuovamente online, siamo qui in diretta dall'aula occupata P2 dell'Università della Calabria. Questa, come dicevo prima, è la prima puntata della terza stagione di Indie Radio, il programma di informazione indipendente. Come vi ricordavo, siamo qui a discutere con alcuni amici del Comitato Difesa del Territorio di Donnici di una questione che, come sapete, c'è molto a cuore, cioè la questione dei rifiuti. Ma c'è di più questa volta, insomma, c'è qualcuno che ha detto basta. Ora, volevo chiedere al nostro ospite in studio, il signor Pietro, di raccontarci brevemente, insomma, la questione, la storia di questo comitato, com'è andata? Ok, ci siamo piccoli, ok, vai. Intanto ringrazio per l'ospitalità la radio. E poi niente, il comitato nasce, è un comitato spontaneo, nasce da una notizia a nostra insaputa, più o meno. Si è saputo in giro che si doveva fare un centro di raccolta comunale, in cui in questo centro di raccolta ci andava di tutto e di più, dal vetro alla plastica, tutte le altre, compreso pure l'umido e comunque anche i materiali pericolosi. E quindi noi ci siamo mobilitati, abbiamo costituito questo comitato che da 3 mesi lotta per sapere la verità su questo centro di raccolta comunale. E insomma, una questione anche di verità, di storie che non si conoscono, di popolazioni lasciate nella totale oscurità. Quindi, insomma, la gente si è accorta da sola di quello che è accaduto e a quel punto che cosa è successo? A quel punto il comitato ha cominciato a fare delle domande rispetto a questo centro in cui deve nascere, oltretutto, a 28-30 metri dal fiume Arbicello, e a 200 metri, 300 metri più o meno dalle vigne, dagli uliveti e da tutta la produzione agricola che c'è in quel posto, e soprattutto in un'area dove nel 1959 è successa una cosa molto, molto grave, molto, molto brutta, perché c'è stato quando c'è stata l'alluvione anche a Cosenza, nel posto dove dovrebbe nascere questo fantomatico centro di raccolta, praticamente lì c'è stata l'alluvione e si è tirato tutto quanto, quelli che erano gli alberi e tutte le altre cose che rappresentavano le olive, gli alberi, le pesche. Oltretutto la pesca di Donnici era una pesca conosciuta in tutta quanta la provincia, e poi dopo da allora, più o meno per molte vicende che sono venute fuori eccetera, si è abbandonata quella produzione, e lì è rimasta intanto con la ferita dell'alluvione in quella zona lì. Quindi alluvioni storiche, e attualmente si vuole costruire a pochi metri da un fiume un centro di raccolta comunale. Ma in che cosa consiste effettivamente il centro di raccolta? Perché leggendo soprattutto su Facebook le dichiarazioni del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, lui parla sempre di isola ecologica. Ma c'è differenza o sono la stessa cosa? Sì, infatti il problema sta proprio in questo, no? Un'isola ecologica, per, se si intende per isola, perché io la chiamo penisola ecologica, perché penisola ecologica significa che può essere abbastanza grande una penisola, un'isola è abbastanza piccolina. Allora, se in una isola ecologica si ci mette tutta la produzione che si fa nella città di 100.000 abitanti, e speriamo che sia solamente per 100.000 abitanti quel centro di raccolta, allora che cosa succede lì? Loro dicono che utilizzeranno 2.500 metri quadrati e invece ne hanno a disposizione già 5.000 adesso, ma in quell'area no, la disponibilità dell'area è molto più grande, più vasta. E allora non voglio fare ipotesi catastrofiche, ovviamente, però non lo so, il sindaco quale garanzie ci dà, no? La garanzia, queste cose qui non le facciamo, No? Lui dice: se eventualmente l'umido magari non ce lo mettiamo. Sì, lo dice lui. E siccome si dà ad un privato, io come faccio ad andare a controllare, eventualmente, ammesso che vorrei controllare e che posso controllare? Insomma, quasi parla di fare un'isola ecologica a parole, però poi sui progetti, sui documenti leggiamo centro di raccolta. E se ho capito bene, questo centro di raccolta o isola ecologica, che dir si voglia, è in realtà è un centro che raccoglierebbe tutta la spazzatura proveniente quantomeno da Cosenza, quindi si tratterebbe di una struttura anche abbastanza grande. Sì, se sono 100.000 abitanti, non vedo come fai a fare quello che dice il sindaco, cioè 4-5 container dove metti le varie tipologie di spazzatura. E premetto una cosa, no? Si parla di raccolta differenziata a Donnici. La raccolta differenziata di Donnici è fatta così, cioè noi ci hanno dato un bidone marrone dove si può mettere l'umido e poi all'inizio 10 buste di plastica in cui si poteva mettere la differenziata, tipo il vetro, la carta e la plastica. Però sono stati i primi 10 pacchi che noi, sacchetti che abbiamo avuto, e poi non abbiamo avuto più. E ci è rimasto questo simbolo marrone che noi mettiamo davanti alla porta per 3 giorni alla settimana. Quindi anche la raccolta differenziata, secondo me, io non sono un tecnico della raccolta differenziata, però adesso mi sto cominciando ad interessare a questa materia qui, eccetera. Io vedo che molte persone non la fanno la raccolta differenziata così come si dovrebbe fare. E questo secondo te per quale motivo avviene? Perché i cittadini non vogliono farlo o perché non hanno capito? No, i cittadini non sono stati assolutamente istruiti su quello che significa fare differenziata. Significa andare casa per casa, cercare di convincere la gente a fare la raccolta differenziata così come si conviene, e poi eventualmente incominciare a parlare appunto di isola ecologica, di raccolta differenziata e tutto quello che c'è da fare su questo, perché un programma organico di differenziata, eccetera, almeno secondo noi non c'è. Quindi il comune di Cosenza è partito con questa differenziata, diciamo un po' a sprazzi, prima Donnici, poi tutta la città, e in realtà mancherebbe un piano organico, almeno per quello che è dato sapere, sì, rispetto alla differenziata. E di contro si va poi a costruire questo grande centro. Insomma, un bel panorama, devo dire. Infatti la nostra preoccupazione parte proprio da questo, no? Che c'è rispetto a tutto questo un'approssimazione, e invece da parte nostra il comitato con i nostri tecnici, i nostri avvocati hanno prodotto un dossier, no? Di almeno 45 pagine dove mettono in risalto tutte quante le criticità del sito. Lì ci sono criticità in cui il sito non dovrebbe nascere per tutte le criticità che ci sono, e noi come risposta abbiamo avuto dal sindaco 3 paginette smilze a dire: no, tutte le cose che dite voi non sono vere, noi la facciamo perché ci interessa farla. Ok, benissimo, insomma, una bella storiella. Ora io direi di ascoltare una bella canzone di Rino Gaetano che si chiama Glu Glu. Mi sembra anche un titolo forse bellissimo, azzeccato per la situazione. Bene, rimanete con noi, siete all'ascolto di Indie Radio, un programma di informazione indipendente che ogni martedì andrà in onda alle ore 20 in diretta dall'aula occupata P2. Glu glu, le spime se nell'igloo, Ed eccoci qua, siamo di nuovo, ecco qua, qualche piccolo problemino tecnico, vabbè, ma ci sta. E insomma, siamo di nuovo qui su Fuori Onda Radio, questa è Indie Radio, il programma di informazione indipendente che finalmente riparte per la sua terza stagione. Stiamo parlando, come dicevamo prima, di un argomento a noi molto caro, cioè i rifiuti. In particolare stiamo raccontando la storia di questo piccolo paesino che in realtà fa parte del comune di Cosenza, che si chiama Donnici, dove è nato un comitato che è in lotta per dire no alla costruzione di un centro di raccolta dei rifiuti che dovrebbe servire tutta la città di Cosenza e sul quale gravano una serie di pesanti dubbi. Abbiamo con noi degli ospiti in studio e il signor Pietro ci sta raccontando insomma un po' di questa storia. Ci parlava prima di questo dossier che la popolazione di Donnici, tramite i legali e i tecnici che vivono a Donnici, ha realizzato per dire che cosa, Pietro? Ma intanto per dire appunto le criticità che ci sono, eccetera, dalla parte destra del fiume, guardando da Cosenza, c'è una località che si chiama Asciolla. Tutti quanti penso che in dialetto sanno cosa significa. Significa che lì c'è in atto una grande frana che sta scendendo piano piano, eccetera. Adesso è ferma, ma può essere che parta da un momento all'altro, visto le condizioni meteorologiche che ci sono. Quindi questa è una criticità storica di quel posto. Ma poi i nostri tecnici sono andati a prendersi le carte con molta fatica, sono riusciti a fare questo dossier dove si mettono in evidenza tutte quante le criticità che ci sono, e quindi i nostri avvocati hanno fatto pure le denunce alle autorità di bacino, alle autorità regionali, provinciali, eccetera, e aspettiamo risposte per queste cose, perché ancora dei problemi, delle cose che noi abbiamo prodotto. Io non sono un tecnico, quindi non posso entrare nei dettagli. Però un dossier di 45 pagine può essere letto, poi a disposizione c'è pure un video che abbiamo fatto, un CD, voglio dire, è un dossier appunto di 45 pagine in cui può essere letto, commentato eventualmente, e non con tre paginette, ma commentato punto per punto eventualmente, e poi possiamo parlare di quello che è il sito. Ok, ma parlavi di queste criticità, in che cosa consistono più o meno, insomma, grandi linee? Per esempio, lì, no, ovviamente è normale, è naturale, no, che lì ci siano falde acquifere, e le falde acquifere, per quanto riguarda quella zona lì, dicono, a non più di 8 metri dal livello del terreno, quindi sono bassissime le falde acquifere. Falde acquifere che, guarda caso, no, vanno poi noi ci dobbiamo bere l'acqua di quelle falde eventualmente, no? Quindi già questa è una cosa molto interessante da andare a vedere. E poi altre criticità, ma una criticità che io come persona anziana, no? Siccome io mi ricordo la devastazione che c'è stata in quel posto, ripeto un'altra volta questa cosa, la devastazione che c'è stata in quel posto, che è stata veramente veramente brutta, in cui si va a costruire sull'alveo del fiume, in praticamente, no? Una struttura in cui ci sono, se quello che dice la tabella delle cose che si possono mettere in questa struttura, dalle batterie all'umido, al vetro, alla plastica e tutto quello che poi si ci può mettere lì, benissimo, che cosa succederà? Quindi mi stai dicendo che ci sono falde acquifere, movimenti franosi in atto, e soprattutto nel 59 il corso del fiume è deviato, e ora laddove prima c'era il fiume andrà a essere costruito questo centro di raccolta. E poi tante altre questioni, anche mi dicevi prima fuori dai microfoni, per esempio anche la presenza di alcune strutture di interesse anche demaniale. Certo, ci sono i cosiddetti acquari, no? Gli acquari che risalgono addirittura probabilmente a prima dell'Unità d'Italia, quindi sono dei reperti storici, sono solamente noi non riusciamo a dare l'importanza a queste costruzioni, no? Che sono costruzioni fatte per dare la possibilità alle persone di dare l'acqua alle varie piantagioni che c'erano lì sul posto. Quindi in pratica erano dei canali, sono dei canali che portano l'acqua nelle varie zone, dai fiumi, dal fiume che dal c'è. Fiume. Però questi canali in pratica dove si trovano? Cioè sono lontani dal sito? No, oppure? Sono praticamente sul sito. Il sito praticamente è sul canale, si mette su. E voglio dire, vabbè, loro dicono, ma noi ci mettiamo un tubo di plastica, la facciamo andare più in là l'acqua, eccetera. Cose che ho sentito, non lo so se erano delle tecnici, voci, sì, delle voci, okay. Delle voci. Erano delle persone che dicevano, non ci vuole niente, un tubo di plastica, ad una cosa, no? Ad un manufatto che risale a più di 150 anni fa ormai. Quindi no? Si andrebbe a costruire su un bene demaniale. Certo, di su capire. Di un bene demaniale. Magari rischiando anche di rovinarlo se non è stato già certo, fatto. Certo, infatti il problema è proprio questo. Noi vogliamo pure sapere, no? Per esempio quello che ci è andato su, perché l'entrata nel cosiddetto perimetro della discarica ci è andata terra di riporto e non si sa quello che c'è, perché noi abbiamo fatto denunce perché su quella strada c'erano, noi le abbiamo viste da fuori, voglio dire, dentro non siamo andati, quindi noi abbiamo visto dell'amianto. Dell'amianto, ma le autorità sono state informate? Mi pare ho visto delle foto, c'era un signore con una tuta e un paio di guanti che spruzzava un liquido azzurro. Esatto, lì sono venuti, no, per vedere un pochettino quello che c'era in questa strada, però voglio dire hanno fatto una ricerca abbastanza superficiale e non in profondità. L'altro giorno ci sono stati dicendo che faranno delle indagini rispetto a questa cosa per vedere se c'è altro materiale che può essere pericoloso. Quindi se c'è amianto, per quello che ne so io, bisognava subito recintare l'area, renderla impraticabile a chi che sia e poi bonificarla. Invece mi pare di capire che ancora l'area non è recintata. No, se ne viene domani mattina lì sull'area, poi senza nessun problema calpestare quell'area, camminarci, magari fumandosi una sigaretta oppure mangiandosi il panino, perché lì l'aria è molto bella, eccetera. E però sotto non sai quello che c'è. Bene, dopo questo bellissimo racconto io direi di ascoltare un altro brano di Rino Gaetano che a me piace molto, che è Rosita. Quindi a fra poco con Indie Radio. Ed eccoci qua, siamo di nuovo in diretta su Fuori Onda Radio, questo ricordo che è finalmente il primo appuntamento della terza stagione di Indie Radio, lo sto dicendo sempre, insomma stiamo questa sera parlando di un argomento a noi molto caro e in particolare stiamo raccontando la storia di questo comitato di Donnici, un comitato di difesa del territorio di Donnici. Intanto prima ho sbagliato perché ho annunciato una canzone Rosita, in realtà era al compleanno della zia Rosina, un'altra bellissima canzone di Rino Gaetano, insomma stiamo facendo un po' di muoli i nostri soliti, però devo dire che sta andando abbastanza bene. Finalmente non siamo più alle prese con annosi problemi tecnici di microfoni perché abbiamo, lo voglio ricordare, una Fuori Onda Radio rinnovata e rivista, abbiamo un bellissimo computer, un fantastico mixer a due canali, però insomma finalmente ci siamo, non abbiamo più i microfoni cinesi che ci assistono, ma dei microfoni veri e seri, quindi olè Fuori Onda Radio. E ritorniamo a noi, cerchiamo di mantenere un decoro perché abbiamo degli ospiti studio questa sera, quindi non, cerchiamo di non sconcludere come facciamo al solito, e ritorniamo a noi all'argomento della serata. Insomma parlavamo di Donnici, di questa questione, di questo centro eccetera, ma io volevo chiedere al nuovo ospite che è giunto qui in studio, Arcangelo, che ti prego di aprire il microfono perché sennò non ti sentirà mai nessuno. A piccia. No, non ci siamo. Era già acceso. Era qua, era ecco. Già acceso, abbiamo fatto una figura di merda prima, va bene. Allora, parlavamo di Donnici, ma obiettivo realizzare questo centro di raccolta che, mi pare di capire, raccoglierà tutte le tipologie differenziate, sì, ma tutte le tipologie di spazzatura tranne rifiuti, come dire, indifferenziata, tranne indifferenziata. Okay. E poi, bombe atomiche. Anche le bombe atomiche. E morti, diciamo, morti da settimane, no, quelli, okay. Il resto sì. Ok, ma insomma questo territorio di Donnici, vogliono costruire questo centro, però fino ad ora magari è un luogo, le colline di Cosenza sono un luogo incontaminato dove magari fino ad ora no, tutti i cittadini respirano aria pulita, la terra è trasparente e chiara come le acque. Com'è questo territorio di Donnici? Guarda, diciamo che se uno viene a Donnici e immagina un futuro in questo paese, sicuramente non, più che vedere un centro di raccolta, vede magari un mercatino dei prodotti tipici donnicesi, vede altre piantagioni, vede verde, vede bambini che magari giocano in quest'area, immagina altro, diciamo che il paesaggio di Donnici lascia immaginare tutto tranne una discarica che poi il sindaco si ostina a chiamare isola ecologica. In realtà non lo è, almeno per quello che noi immaginiamo come isola ecologica. Come isola ecologica noi immaginiamo delle ecopiazzole di qualche metro, non sicuramente di 2000 metri quadrati, in cui vanno a confluire alcuni tipi di rifiuti e soprattutto ecopiazzole distribuite nell'area di Cosenza e poi Donnici, San Ippolito, in modo capillare, cioè ogni tot centinaia di metri un'isola ecologica. Invece noi abbiamo questo mostro e questa è la realtà. Donnici, diciamo che ha un altro, i donnicesi immaginano un altro futuro per il loro paese. Quindi io ho sentito, ho letto un po' di cose, si parla anche di cittadini di Donnici preoccupati che non vogliono questa cosa, ma in realtà dalle tue parole mi pare invece di capire che i cittadini donnicesi sono ben consapevoli di quello che sta accadendo e soprattutto sono propositivi e hanno in mente anche altre idee per risolvere la questione dei rifiuti. Certo, innanzitutto i cittadini donnici prima erano preoccupati, adesso sono pure incazzati un pochino, perché comunque diciamo che poi all'inizio c'era la preoccupazione e ci sono state delle richieste da parte del comitato al comune. Queste richieste, le risposte non sono state date mai definitive, non c'è stato nessun tipo di confronto e quindi mano a mano questa preoccupazione è diventata anche un po' di rabbia, un po' di incazzatura. Però poi questa rabbia si è trasformata anche in qualcosa di costruttivo. Noi abbiamo dei progetti, per fortuna, cioè a questo punto mi viene proprio di ringraziare il sindaco o l'amministrazione, è più giusto parlare di amministrazione, che ricordiamo che è un progetto nato nel 2009, quindi diciamo che noi non ce l'abbiamo direttamente con un sindaco, un assessore, noi ce l'abbiamo con un sistema che bypassa la volontà dei cittadini e fa dei progetti senza neanche condividere o perlomeno avvisare gli abitanti del luogo dove si fa questo progetto. Noi, grazie a questa ostilità, insomma, grazie a questa rabbia, abbiamo cominciato a essere anche più consapevoli, a informarci di più e stiamo progettando delle cose per quello che riguarda il nostro territorio, un tipo di approccio, diciamo, diverso. E perlomeno pensiamo che le istituzioni dovrebbero ascoltare questi nostri propositi e incontrarci per capire se si può fare qualcosa e se finalmente la politica riesce a fare un progetto che è condiviso dai cittadini che abitano il luogo dove questo progetto dovrebbe avvenire, insomma. Quindi mi stai dicendo che la partecipazione popolare alle scelte che riguardano il territorio fino ad ora a Donnici, o forse penso a tutta Cosenza, o tutta la Calabria, o tutta Italia, è mancata, non c'è stato nessuno. Guarda, io qua leggo di fronte a me uno striscione, alla fine c'è scritto più controllo popolare, no? Mi sembra di leggere. Sì, sì, sì. Beh, sto parlando di questo, cioè manca proprio il controllo popolare, cioè le istituzioni evitano questo controllo popolare perché forse controllo significa anche controllare il flusso di denaro, controllare la giustezza di un progetto, controllare che non ci siano dietro le solite mafie, i soliti accordi fra di loro. Ecco, questo è quello che manca a Donnici, ma penso che manchi un po' a livello nazionale in tutta Italia. Infatti l'Italia ha fatto la fine che tutti sappiamo, insomma. Bene, insomma, vediamo questa gente che vuole in un certo qual modo riprendere in mano le sorti del proprio territorio, e sappiamo che Donnici non è l'unico esempio di questo in Calabria. Infatti il comitato di Donnici nelle scorse settimane si è recato anche a Battaglina. E che cosa succede a Battaglina brevemente? Perché Donnici si è recata nella provincia di Catanzaro a partecipare a una grande manifestazione? Sì, perché Battaglina significava all'inizio, no? Dicevano che era un'isola ecologica, che sarebbe stata una cosa piccolina, eccetera. Intanto, guarda caso, pure Battaglina, sotto il sito dove dovrebbe nascere questa discarica, si parla di una discarica, della discarica più grande d'Europa, ci sono delle falde acquifere. Quindi i territori lì si sono pure ribellati, eccetera. Noi non sappiamo, perché a Donnici il terreno, l'area in cui nasce questa cosiddetta centro di raccolta comunale è abbastanza ampio, cioè addirittura lì possono arrivare pure fino a Cosenza, no? E sono 6 chilometri da poter investire con il centro di raccolta comunale. Ma soprattutto noi abbiamo sul fiume Crati, a 300, 200, 300 metri da Donnici e da Sant'Ippolito, una discarica chiusa da 20 anni più o meno, adesso non ricordo la data precisa, che è stata chiusa per volere dei cittadini di Sant'Ippolito, e che noi non sappiamo, nei 30 anni che la discarica è stata aperta, quello che nella discarica c'è. Noi lo vorremmo sapere, perché ne va della salute della popolazione di tutta la zona, l'area. Quindi di fronte a Donnici c'è quest'altro paese che fa sempre parte del comune di Cosenza, che si chiama Sant'Ippolito, dove c'era, diciamo, per molti anni, dagli anni 70 fino agli inizi degli anni 90, la discarica praticamente della città, dove non si sa effettivamente che cosa è andato a essere sversato e quant'altro. Quindi attualmente non c'è nemmeno una bonifica, mi pare di capire. Però io a questo punto, dopo queste cose insomma abbastanza tristi, direi di ascoltare finalmente il mio gruppo preferito, che tutti sanno, insomma. Io direi di ascoltare questa bellissima canzone dei Diaphragm per la gioia di tutti i nostri ascoltatori, e un bellissimo live di un CD che praticamente non si troverà mai nella vita, e quindi potete magari solo ascoltarlo qui. E ascoltiamo quindi La natura violenta dell'amore in questa indimenticabile interpretazione del grande Federico Fiumani. Quindi rimanete all'ascolto di Fuori Onda Radio, fra poco parleremo di questa discarica di Sant'Ippolito. Ed ecco a voi La natura violenta dell'amore. La natura violenta dell'amore conduce noi a cercare un poco di conforto dentro gli occhi suoi. Lei gli nega anche quel misero sguardo, perché sa qual è la distanza tra due occhi e un mondo chiuso dentro sé. La natura violenta dell'amore lo sa qual è, lo riporta per il risveglio in fondo, chiuso dentro un sogno. Ma come fa l'amore ad ammonire il timore? Ma come fa l'amore ad ammonire il cuore? Una revoluzione solo per avere 10 più illusioni di avere. Via. A cercare a figura ed eccoci qua. Federico Fiumani si chiedeva: ma come fa l'amore a rabbonirti il cuore? Boh, una bella domanda, insomma. Ma siamo qui di nuovo in diretta dall'aula occupata P2 dell'Università degli Studi della Calabria. Di fronte a noi abbiamo No Inquinamento, Basta Speculare contro il commissario, più controllo popolare, e stiamo proprio parlando effettivamente di una questione che riguarda il controllo popolare e l'inquinamento. Stiamo cioè raccontando la storia delle colline a sud di Cosenza, che fanno parte del comune di Cosenza, dove si trovano dei piccoli paesini, Sant'Ippolito e Donnici, che vivono e hanno vissuto sfortunatamente delle questioni abbastanza annose. Dicevamo prima con Pietro di questa come dire, di questa discarica chiusa di Sant'Ippolito, che è stata chiusa per grazie al volere popolare, in quel caso sì, controllo popolare. Ma ora che cosa succede a Sant'Ippolito? Arcangelo magari ci vuole raccontare un po' meglio, giusto questa, per tornare alle cose tristi, alle cose ma c'è stato prima Federico Fiumani che in questo brano sembra proprio un cane. A proposito di natura violenta, non dell'amore, ma di altre cose, degli uomini. Beh, Sant'Ippolito è, se vogliamo, ancora più grave, anzi sicuramente ancora più grave, perché comunque le conseguenze le paghiamo, immagino, ancora adesso. Il 91 è stata bloccata questa discarica, praticamente era una discarica dove confluivano tutta la munnizza di Cosenza, diciamo. Non so, poi stranamente c'è questa periferia di Cosenza che viene scambiata per il cesso di Cosenza. Hanno fatto il canile, negli anni 70 hanno fatto questa discarica, adesso ci vogliono portare questa magnifica isola. Comunque, tornando a Sant'Ippolito, da quando è chiusa quest'isola non è mai stata fatta una bonifica. Allora cosa è successo poi negli anni? Evidentemente c'è stato qualche reazione chimica, perché poi questa spazzatura è rimasta sottoterra. Non mi ricordo se l'anno scorso, due anni fa, insomma, è cominciato addirittura a uscire dei fumi da sotto questa immensa area dove c'era questa discarica. E Sant'Ippolito era stata inserita giustamente fra i 15 comuni che avevano diritto a una bonifica immediata. Stranamente, nella prima, diciamo, cartella dove c'erano i comuni che avevano bisogno di questa bonifica, quindi a cui dovevano arrivare dei soldi per fare la bonifica, c'era Sant'Ippolito, ma alla seconda non c'era più Sant'Ippolito, c'erano altri comuni che magari avevano delle aree molto più piccole. Chissà per quale motivo Sant'Ippolito si è trovato fuori da questa lista, diciamo. Forse perché ci volevano troppi soldi? O forse perché questi troppi soldi li mandavano a un comune dove gliene servivano di meno e quello che rimaneva se li rubavano. diciamo che è una regola delle amministrazioni queste, no? Dare tanti soldi a un progetto che ne vale metà, dici metà ne spartiamo, l'altra metà. bello. Sì, succede, insomma, dai, può succedere. Niente, adesso noi abbiamo ripreso in mano questa situazione di Sant'Ippolito, infatti probabilmente ci sarà un consiglio comunale dove si parlerà di questa emergenza. Stiamo riprendendo coscienza di questa cosa, siamo in contatto con gli abitanti di Sant'Ippolito. Sant'Ippolito purtroppo non è più quella realtà viva e vivace che era una volta, perché sono molto meno abitanti, e però insomma siamo in contatto con loro, ci siamo incontrati un paio di volte, stiamo cercando di sensibilizzare anche la città di Cosenza, perché non dimentichiamo che quell'area è vicina a un affluente del Crati, e chi va a pescare al fiume Crati pesca in delle acque che sicuramente sono contaminate. Siamo andati lì a fare delle riprese, delle foto, e non vi dico cosa abbiamo trovato, e la puzza che c'era lungo il fiume, lì lungo l'affluente. Quindi voglio dire, è una situazione, penso, d'emergenza, in cui qua si tratta veramente della salute. A Sant'Ippolito c'è una altissima percentuale di bambini nati con dei problemi di lopece alla pelle. Io non credo che sia così, sia casuale la cosa, insomma. Quindi insomma stiamo cercando anche di affrontare quest'altro problema, che penso sia addirittura più grave, insomma, di quello di Donnici, perché comunque Donnici è un progetto in cui siamo riusciti a fermarlo prima che esso venga realizzato. Sant'Ippolito è un progetto che è stato realizzato, è stato chiuso, però la bonifica non è stata fatta ed è pericolosissima questa cosa, insomma. Anche perché le discariche sono sempre pericolose, ovviamente, ma quelle degli anni 70 immagino siano ancora più pericolose, perché non c'era l'impermeabilizzazione del terreno e quant'altro. Però insomma, dopo questa vicenda di Sant'Ippolito, io mi chiedo, ma i cittadini di Donnici sono contro la differenziata? Mi pare di capire proprio di no. Allora, come possiamo fare per risolvere il problema e soprattutto per non avere più queste discariche, per non avere più questo accentramento della monnezza in questi grandi centri di raccolta che poi non si sa che fine andranno a fare queste monnezze? Come dobbiamo fare, insomma, Pietro, secondo te? Intanto una domanda, questa qui va rivolta al sindaco. Che vuole fare? Vuole fare delle isole ecologiche? Vuole fare la raccolta differenziata, veramente differenziata, in cui ogni cittadino partecipa a questa raccolta differenziata con cognizione di causa, e non fare invece una differenziata così, tanto senza nessun senso, come a Donnici? A Donnici noi facciamo una differenziata, si fa per dire differenziata, perché non è nessuno, no? Nessuno è stato istruito rispetto a quello che deve mettere in un cestino o nell'altro. E ripeto, noi abbiamo una sola cosa di plastica marrò che ci ha consegnato il comune, in cui si mette l'umido e basta. Noi invece, come cittadini, ci vogliamo organizzare, ci stiamo organizzando per cercare di provvedere a un'educazione, soprattutto a una partecipazione della gente alla differenziata, così come si fa, e a isole ecologiche, veramente isole ecologiche, e non una penisola, come dicevo poco fa, no? In cui tutta quanta la città, e non solo secondo noi, scaricherà lì, sul fiume. Quindi io ho letto, insomma, alcuni vostri comunicati, si parla anche di rifiuti zero, insomma, questa teoria è creata da questo dottore, da questo studioso statunitense Paul Connett, che trova riscontro sia negli Stati Uniti, viene applicata a San Francisco, ma anche in Italia, dove viene posta in essere in un comune della Toscana. Che cos'è questo rifiuti zero? I donnicesi sono a favore di questo rifiuti zero? Certo, intanto un'associazione culturale di Donnici, perché a noi ci hanno detto che noi siamo zoticoni, ignoranti, eccetera, però qualche intellettuale a Donnici, qualche persona che sa qualcosa c'è. Bene, abbiamo invitato il professor Laghi a Cosenza, alla sala Gullo, in cui appunto ha prospettato le teorie del rifiuti zero, in cui c'è tutto, no? È tutto tranne che appunto il progetto di che c'è in animo la città di Cosenza come centro di raccolta comunale, è un'altra cosa, anche perché parlare di rifiuti zero sicuramente non significa risolvere in un giorno la questione dei rifiuti, però significa avviare una serie di tappe che permetteranno poi realmente una cosa molto importante, cioè modificare i propri stili di vita, perché non è più pensabile andare al supermercato, per dirne una, e comprare una busta che contiene tante altre buste che contengono alla fine un piccolo prodotto. Magari se noi riducessimo drasticamente la produzione di spazzatura, sicuramente il problema dei rifiuti sarebbe ridotto. Se poi a questo aggiungiamo che magari utilizziamo dei materiali riciclabili e non, che ne so, la plastica e tante altre schifezze che ci circondano e ci avvelenano quotidianamente la vita, magari risolveremmo ben presto o nel corso di qualche decennio questo grave problema, che non riguarda chiaramente solo Cosenza o l'Italia, ma riguarda in realtà tutto il mondo, perché ormai si parla di realtà globali e non più nazionali o sovranazionali che siano. Quindi, insomma, i donnicesi mi pare di capire che siano veramente molto interessati e determinati, insomma, esatto, nella risoluzione, interessate e determinati a cercare nel miglior modo possibile, no? Di fare la differenziata esattamente come si fa. E il dialogo che noi, intanto il comune ha sempre rifiutato di fare dialogo con noi, perché, ripeto, ci hanno detto di tutto e di più, no? Violenti e altri epiteti, e altre amenità, di questo tenore. Noi invece siamo disponibili al confronto, no? Ci confrontiamo, magari ci scontreremo pure, perché ma no? Ma fa parte della dialettica, esatto, lo scontro. Faremo una dialettica, appunto, sì, sì. E allora, noi abbiamo una idea di fare di raccolta differenziata, probabilmente la città, il sindaco ne ha un'altra, ci saranno altre persone, se saranno lì presenti, in cui diranno pure la loro, e poi eventualmente facciamo il progetto. Invece, questo progetto, che è stato realizzato, come diceva Arcangelo, 4-5 anni fa, ma a noi non ci interessa. Quello che è stato fatto prima, a noi non ci interessa, perché, non ripeto, fino a 5 mesi fa, di questo progetto nessuno sapeva niente, ma niente. No? Poi tutti quanti dicevano, no, ma io... anche gli assessori comunali, io non ne sapevo niente, io ero all'oscuro, eccetera, sì, eccetera. Non ne sapeva niente, sì, nessuno, alla fine lo stavano facendo. Esatto, invece lo stavano facendo sotto i nostri occhi. Allora, vogliamo fare un confronto? Noi siamo disponibili al confronto, però lì noi contestiamo il sito, il modo di mettere tutta quanta la raccolta differenziata in un solo posto e tutto quello che c'è dietro. Ok, benissimo. A questo punto io direi di ascoltare un po' di una musica davvero allegra questa volta, e ascoltiamo Red Wine, che con Donnici diciamo che secondo me ci azzecca proprio, insomma, no? Allora, fra poco, sempre su Fuori Onda Radio, questa è Indie Radio. So fine, you keep me rocking all of the time. Red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet headline. Red wine, you give me Wally Pazing, make me do my own thing. Red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red wine, I love you right from the start, with all of my heart. Red wine in a 80s style. Red wine in a modern beat style, yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. till I die, love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just questo Red Red Wine, se qualcuno ce ne portasse un po', devo dire che sarebbe una... magari da voi da donne potevate pure portare un po' di vino, secondo me. Prima abbiamo assaggiato... No, prima abbiamo assaggiato un liquore, qui ci siamo affezzati un pochino, devo dire. Un peretto, non lo so, a voi niente ragazzi, siete arrivati tardi. E insomma, niente, siamo veramente agli sgoccioli quasi di questa prima puntata di Indie Radio. Sempre qui su Fuori Onda Radio, sempre qui in diretta dalla occupata P2 dell'Università della Calabria. Bene, dicevamo di questo centro di raccolta comunale di Donnici, di questo comitato che si è formato, una esperienza veramente interessante e significativa, con degli sguardi anche ad altre questioni regionali. Ma a questo punto che cosa è successo? I cittadini di Donnici sono costituiti in comitato spontaneo e orizzontale e libero e autonomo, e hanno presidiato e continuano a presidiare la zona da oltre 3 mesi, mi dicevano. Attualmente i lavori sono fermi perché tutte le ditte che dovevano fare questi lavori hanno rifiutato, non sappiamo per quale motivo, hanno rifiutato questo lavoro in tempi di crisi. Rifiutare un lavoro deve essere proprio un grande gesto di coraggio, insomma. Bene. Comunque, questo comitato dove sta andando? Che cosa vuole fare? Che cosa farà? Dove sta andando? Dove sta andando? Quello. Intanto sta andando, all'Albicello a difendere il proprio territorio. La cosa bella che è successa, insomma, attraverso questo episodio, che ovviamente non è bello, come è che è stato, diciamo, una protesta trasversale. Io ho frequentato, diciamo, sono stato pure io all'università e ho frequentato parecchi posti occupati, mi ricordo l'esperienza Filo Rosso ed altre esperienze, e ero abituato a vedere gli antagonisti sempre giovani, insomma, andavano a dare il documento. Al campo sportivo a Donnici tu vedevi le vecchiette che, che si autodenunciavano, insomma, che è stata un'esperienza che, secondo me, ecco, è lì il vero cambiamento. Cioè, quando cominci a vedere che una protesta è partecipata in modo orizzontale, dove vedi bambini, donne anziane, donne che magari all'apparenza nessuno potrebbe immaginare, invece tu sfiderei qualunque celerino lì ad andare col manganello a correre dietro a una vecchietta o a un bambino di 5 anni. Ecco, questa è stata, secondo me, una vera novità, ed è stato l'esempio di come, quando ci si unisce veramente dal basso, si possono anche cambiare parecchie cose, si può anche resistere agli abusi di potere, perché secondo me questo è stato poi l'aspetto, diciamo, fra molte virgolette politiche, è stato che ancora una volta c'è stato un abuso di potere, cioè di un'amministrazione rispetto a un cittadino. Poi quello che è successo dopo è che, attraverso questo gruppo Facebook che abbiamo creato col comitato, e che invito tutti ad andare a visitare, Comitato Difesa del Territorio Donnici, si parla anche di altro, si parla della nave fantastica che sta arrivando a Gioia Tauro, siamo andati anche a Battaglina, insomma, stiamo diventando consapevoli, coscienti, più organizzati, studiamo, insomma, non siamo più gli ignoranti che eravamo come diceva l'amministrazione qualche mese fa. Anzi, stiamo diventando veramente, secondo me, un esempio per tante altre realtà. E io penso che se ci si unisce dal basso, insomma, forse qualcosa finalmente può cambiare. Quindi non è solo un'esperienza di un comitato che dice no a una cosa, rivendica qualcosa e basta, è qualcosa di molto di più, mi pare di capire. Sì. Un'esperienza anche di partecipazione orizzontale, dove si rifiutano le vecchie forme, diciamo, di verticalismo, dove ci sono capi e sottoposti. Ti dico solo questo: a Donni ci si sta preventando l'idea di, per le prossime magari votazioni, proporre il non voto attivo. Un intero paese, no? Che probabilmente non voterà per protesta. A Donni ci si sta parlando di magari l'eventualità di chiedere l'autonomia come comune. Cioè Donnici in modo trasversale, ripeto, non i soliti facinorosi, i soliti antagonisti che una volta erano nei centri sociali, poi magari ancora nostalgici di no, trasversalmente si sta parlando di qualcosa di serio. Cioè qua Donni ci può diventare veramente un esempio e un baluardo e un monito per tutti gli altri amministratori, e dire: quando venite a Donnici dovete guardarci in faccia e condividere con noi i vostri progetti, se no a Donnici non ci avete venire. Questo è quello che secondo me sta succedendo, e noi vogliamo continuare su questa strada, perché il problema di Albicello è l'inizio di qualcosa di molto più grande, secondo me. E questo dovrebbe interessare un pochino non solo Donnici, ma Cosenza, non solo Cosenza, ma la Calabria, non solo la Calabria, ma un'intera nazione. Cioè, l'unica speranza che abbiamo è quello di unirci dal basso. Quindi un'unione dal basso che presuppone nuove concezioni di vita, un nuovo controllo e una distribuzione orizzontale del potere, poi alla fine, perché non stiamo più lì ad aspettare un'amministrazione o chi che sia che ci viene a costruire, che ne so, qualcosa, un ponte, una strada, e poi dà il lavoro a due o tre di noi come ricompensa per la nostra bontà e per il nostro silenzio, perché poi funziona anche così in alcune zone d'Italia. Devo dire, secondo me sei stata di nascosto a Donnici. Non hai capito esattamente. No, noi siamo sempre nella P2, non ci muoviamo da qui. Noi siamo nella P2, non usciamo mai da questa auletta. Siamo i nostalgici. Bene, io direi che questa chiacchierata con i nostri amici Pietro e Arcangelo è stata davvero molto interessante. Vi ringrazio molto per essere qui. Intanto volevo fare un'ultima, magari volete dire qualche altra cosa, saluti finali, e poi io faccio i miei saluti personali, perché è la prima puntata, capirete bene la mia io emozione. Vi saluto e vi passo il nostro Pietro mangia bambini. Sì, ma ne ho fatto una scorpacciata di bambini. No, io dalla mia posizione voglio fare un saluto particolare a Don Tommaso, il parroco di Donnici, eccetera, che è stato pure insieme a noi a combattere questa battaglia di libertà e di giustizia, perché di questo si tratta. Io, come diceva Arcangelo, abbiamo visto veramente delle persone in cui non assolutamente potevi pensare che scendevano in piazza a protestare, ad essere in prima fila contro questo abuso. Cioè, ma perché l'abuso viene se non sei cosciente di quello che stanno facendo, se non sai cosa fanno, perché lo fanno, chi lo fa, eccetera. E ovviamente la gente si fa delle domande e protesta, e a Donnici non era mai successo questo tipo di una solidarietà eccezionale fra le persone, in cui si prendono decisioni collettivamente, si fanno delle assemblee, si fanno delle riunioni, e tutto quanto è in movimento. Quindi vogliamo andare ancora avanti, molto avanti. Quindi insomma c'è questo comitato orizzontale che prende decisioni solo tramite assemblea, che non ha partiti, che non ha delegati, che non ha leader, e che racchiude praticamente tutta una popolazione, dalle signore anziane ai ragazzini, per passare dai compagni ai compagni del comunista, sì, ai compagni anarchici, sì, per aggiungere poi ai preti, ma insomma veramente infatti straordinario. Dai preti ai comunisti, agli anarchici, alle persone semplici, alle persone che non hanno fra virgolette una ideologia, tutti dicono che sono finite le ideologie, vabbè, io avrei altre idee, no? Però voglio dire, vabbè, questo non ha importanza. L'importante è una cosa, l'importante è che noi siamo riusciti in modo spontaneo, senza nessuna, appunto, noi siamo al comitato, mi pare hanno aderito più di 1500 persone, la raccolta di firme, di firme, ma pure i membri del comitato siamo una marea, hanno aderito al comitato, eccetera. Ebbene, il leader, no? Il leader è il comitato. Siamo 1500, 1200, siamo 1200 leader che fanno, parlano fra di loro, si scambiano le impressioni, le sensazioni, pure le paure, però come si dice, c'è questa grande voglia di resistere ad una imposizione che viene dall'alto. Noi le imposizioni non le vogliamo. Oh, benissimo. E beh, è una bella storia questa, soprattutto perché, ripeto, non è la solita vicenda che si dice no, questa cosa non la voglio a casa mia, magari vado a fare a 100 metri. No, mi pare di capire che si tratta di tutt'altro. E forse la mia voce no, si sente. Bene, io dico che direi che siamo arrivati veramente agli sgoccioli, siamo arrivati alle 21.09, siamo sempre qui nell'aula più occupata, mentre fuori piove, c'è brutto tempo, forse nevicherà, non si sa. E nel frattempo noi siamo qui per questa prima puntata. Io ora devo fare i miei saluti, perché fino ad ora non li ho fatti e sono stata veramente molto tamarra, ma va bene così, anche così. Dunque, volevo ringraziare tutte le persone che fino ad ora si sono occupate della radio e volevo ricordarvi che Indie Radio, vabbè, sarà sicuramente la prossima settimana sempre alle ore 20 qui in diretta dall'aula occupata P2, parleremo di tante altre bellissime cose, ma nel frattempo Fuori Onda Radio non si ferma qui. Infatti proprio oggi abbiamo potuto visionare una cosa bellissima, ovvero il nuovo sito di Fuori Onda Radio, che a breve, quando Peppone e Cicillo finiranno il sito, sarà online. Un sito davvero rinnovato e molto bello, molto fruibile e con una grafica simpatica che stiamo appunto ultimando. Quindi abbiamo tanti programmi, da quelli storici di Clandestino, CID, che nessuno mai vi svelerà che cosa significa questo acronimo, fino a Indie Media, che sapete bene questa nostra zallarata, e poi tanti altri programmi nuovi che sono in diretta dalla P2, ma provengono anche dalla Sicilia, dalla Spagna, da Londra, e probabilmente ci saranno anche tanti altri programmi. Vi ricordo che chi volesse può comunque prendere contatto con noi, andate sul sito fuoriondaradio.altervista.org, andate contatti eccetera eccetera, ci contattate, oppure cercateci su Facebook, prendete contatti con noi, volete venire a fare un programma, leggetevi il nostro manifesto, noi siamo veramente contenti se qualcuno vuole partecipare a questa bellissima esperienza di radio orizzontale e popolare, è autogestita, totalmente autogestita. Quindi ancora grazie, in questo caso grazie anche a Peppone, che questa sera mi ha spiegato di nuovo come dovevo fare, che mi ero scordata, vabbè. E quindi dopo questo momento di nostalgico ringraziamento, io dico che è davvero giunta la fine, mo basta però delle nostre vite, come diceva un vecchio adagio, decidiamo noi. Quindi ancora grazie al comitato di Donnici, grazie a tutti voi che ci avete seguito e che continuerete a farlo sempre con maggiore attenzione, voglia, interesse e tante altre cose. Quindi un saluto carissimo davvero a tutti quanti voi, grazie per l'ascolto e al prossimo martedì. Intanto vediamo una canzoncina finale, però io direi che ci vuole una canzoncina, Arcangelo, secondo te? Ma sì, dai, vai. Allora, vediamo un a caso, sempre Politichi degli Alfa Blondi, penso che sia una canzone appropriata per il finale di questa puntata. Arrivederci e ciao! passi, passi, passi, passi. Politici magnici, politici colombare. Mangi e farati. Politique, politique manie, politique colombare, manie farati, politique colombare, colombare. E siccome la nostra trasmissione Zallare lo sapete tutti, abbiamo scordato una cosa molto importante, abbiamo scordato di salutare Italo. Italo, Italo, ciao! E salutiamo anche però altre, gli altri avventori della P2, vedo lì Pecorella che ora... Un saluto ai nostri, all'ala nerd della P2, e niente, abbiamo detto questa stronzata, ciao ciao ciao. L'ala nerd è fondamentale della P2, altrimenti non sarebbe P2.